ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Mercoledì 3 maggio 1944. Cara Kitty, prima le ultime novità della settimana. La politica è in vacanza. Non c'è niente, ma proprio niente da dire. Piano piano anch'io mi sono convinta che ci sarà l'invasione. Non possono lasciare che facciano tutto i russi. Tra l'altro, in questo momento non stanno facendo niente neanche loro. Come puoi facilmente immaginare, in preda alla disperazione, qui si dice spesso: ma cosa serve la guerra? Perché la gente non può vivere insieme tranquilla? Perché tutto deve essere devastato? È una domanda comprensibile, ma finora nessuno è riuscito a trovare una risposta soddisfacente. Perché in Inghilterra continuano a produrre aerei sempre più grandi, bombe sempre più pesanti e al contempo case prefabbricate per la ricostruzione? Perché ogni giorno si spendono milioni per la guerra e non c'è un centesimo per l'assistenza medica, gli artisti e la povera gente? Perché la gente deve soffrire la fame quando in altre zone della terra c'è cibo in sovrappiù che va a male? O perché gli uomini sono così folli? Non credo che la guerra sia causata solo dagli uomini grandi, dai governanti e dai capitalisti. No, il piccolo uomo la fa altrettanto volentieri, altrimenti i popoli si sarebbero ribellati già da molto tempo. Nell'uomo c'è proprio l'impulso di distruggere, di uccidere, di assassinare e infierire, e finché tutta l'umanità, senza eccezioni, non avrà subito una grande metamorfosi, la guerra continuerà a infuriare e tutto quello che è stato costruito, coltivato e cresciuto sarà di nuovo distrutto e disintegrato per poi cominciare da capo. Spesso sono stata depressa, ma non ho mai perso la speranza. Considero questa clandestinità un'esperienza pericolosa, romantica e interessante. Ogni privazione nel mio diario la descrivo come un divertimento. Mi sono presa l'impegno di condurre una vita diversa dalle altre ragazze e un domani diversa dalle normali casalinghe. Questo è un inizio interessante ed è la ragione, la sola ragione per la quale nei momenti più pericolosi devo ridere della buffa situazione. Sono giovane e ho ancora molte virtù nascoste. Sono giovane e forte e vivo questa grande avventura. Ci sono ancora dentro e non devo lamentarmi tutto il giorno di non potermi divertire. Ho avuto molto, sono di natura felice, molto allegra e forte. Ogni giorno sento di crescere internamente e che la liberazione si avvicina. Quanto è bella la natura, quanto è buona la gente che ho attorno, quanto è interessante e divertente questa esperienza. Perché allora dovrei perdere la speranza? Tua Anne Marie Frank. Lunedì 8 maggio 1944. Cara Kitty, ti ho mai raccontato della nostra famiglia? Penso di no, per questo voglio cominciare oggi. Papà è nato a Francoforte sul Meno da genitori ricchi sfondati. Michael Frank aveva una banca e così era diventato milionario e Alice Stern veniva da una famiglia molto ricca e per bene. Michael Frank in gioventù non era stato affatto ricco, ma si è fatto da sé. Da piccolo papà ha vissuto proprio come un principino. Ogni settimana ricevimenti, balli, feste, belle ragazze, valzer, servitori, tante stanze, eccetera. Tutti quei soldi sono stati consumati dopo la morte del nonno e dopo la guerra mondiale e l'inflazione non è rimasto più niente. Fino a prima della guerra, comunque, c'erano ancora parecchi parenti ricchi, quindi papà ha avuto un'ottima educazione e ieri è scoppiato a ridere quando, per la prima volta nei suoi 55 anni, a tavola ha ripulito il fondo della casseruola. Mamma non era così ricca, però lo stesso molto agiata, tanto che stiamo ad ascoltare a bocca aperta quando racconta di feste di fidanzamento con 250 invitati, balli privati e cene importanti. Non si può più assolutamente dire che siamo ricchi, ma tutte le mie speranze sono per il dopoguerra e ti assicuro che ho intenzioni ben diverse rispetto alla vita semplice e modesta a cui pensano mamma e Margot. Volentieri me ne andrei per un anno a Parigi e uno a Londra per imparare le lingue e studiare la storia dell'arte. Paragonato a Margot che vuole fare la levatrice in Palestina, penso sempre ai bei vestiti e persone interessanti. Voglio vedere qualcosa e conoscere il mondo. Questo te l'ho già detto. E anche avere un po' di soldi non può far male. Cara Kitty, dato che ho dimenticato di sopra la mia scatola tuttofare e quindi anche la mia stilografica e non posso disturbare durante il riposino fino alle 2:30, dovrai accontentarti di una lettera scritta a matita. Ho un sacco di cose da fare in questo momento e anche se sembra strano, ho troppo poco tempo per sbrigare questa montagna di lavoro. Vuoi che ti dica brevemente che cosa devo fare? Bene, dunque, entro domani devo finire di leggere il primo volume della vita di Galileo Galilei, visto che va restituito alla biblioteca. Ho cominciato ieri e sono a pagina 220 di 320, dunque ce la faccio tranquillamente. La prossima settimana devo leggere Palestina al bivio e il secondo volume di Galilei. Poi ieri ho finito di leggere la biografia dell'imperatore Carlo V e devo assolutamente studiare i molti appunti che ho preso e gli alberi genealogici. Poi ho 3 pagine di vocaboli stranieri che aspettano di essere pronunciati, copiati e imparati, tratti dai diversi libri. Al quarto posto ci sono le star del cinema, che sono terribilmente in disordine e non vedono l'ora di essere risistemate. Dato che per ristabilire l'ordine ci vorrebbero diversi giorni e che la professoressa Anne, come dicevo, in questo momento è oberata di lavoro, il caos resta caos. Poi anche Teseo, Edipo, Peleo, Orfeo, Giasone ed Ercole aspettano di essere messi in ordine, visto che nella mia testa diverse delle loro gesta sono annodate come i fili colorati di un vestito. Anche Mirone e Fidia hanno bisogno di un trattamento urgente per non essere completamente estraniati dal loro contesto. Lo stesso vale per le guerre dei 7 e dei 9 anni. Finora faccio una gran confusione. Come posso fare con questa testa? Prova a immaginare come sarò rimbambita a 80 anni. Ah, un'altra cosa. Quanto mi manca per arrivare al bagno di Susanna? E che cosa sono i peccati di Sodoma e Gomorra? Ci sono ancora un sacco di cose da chiedere e imparare. E Liselotte von den Pfalz, intanto l'ho completamente piantata in asso. Non vedi che ne ho fin sopra i capelli? Cambiamo argomento. Come sai già, il mio desiderio più grande è diventare giornalista e in seguito una scrittrice famosa. Si vedrà se riuscirò mai a realizzare queste manie di grandezza, follie. Ma per il momento ho ancora molti argomenti. Dopo la guerra, in ogni caso, voglio pubblicare un libro intitolato L'alloggio segreto. Bisogna vedere se ci riuscirò, ma il diario potrebbe essermi utile per questo. Sabato 13 maggio 1944. Carissima Kitty, ieri era il compleanno di papà e anche il 19° anniversario di matrimonio suo e della mamma. Non c'era la donna delle pulizie e il sole splendeva come mai nel 1944. Il nostro ippocastano è in piena fioritura dalla testa ai piedi, pieno di foglie e molto più bello dell'anno scorso. Papà ha ricevuto da Kleiman una biografia di Linneo, da Kugler un altro libro sulla natura, da Dussel Amsterdam sul mare, dai Van Dan una scatola enorme che sembrava confezionata dal più abile decoratore con 3 uova, una bottiglia di birra, uno yogurt e una cravatta verde. Il nostro vaso di sciroppo in confronto sembrava un po' misero. Le mie rose hanno un profumo stupendo. Lo stesso non si può dire dei garofani rossi di Miep e Bep. È stato viziato. Da Simmons sono arrivate 50 pastine squisite. Papà ha offerto pan pepato, birra per i signori, per le signore yogurt. Tutto buonissimo. Tua Anne Marie Frank. Martedì 16 maggio 1944. Carissima Kitty, tanto per cambiare, visto che da tempo non te ne parlavo, voglio descriverti una piccola discussione che i signori Van Dan hanno avuto ieri sera. Lei. I tedeschi nel frattempo avranno rafforzato il vallo atlantico. Certamente faranno tutto quello che potranno per frenare gli inglesi. È spaventosa la forza dei tedeschi. Lui. È già spaventosa. Lei. Sì, sì. Lui. Sicuramente i tedeschi finiranno per vincere la guerra, tanto sono forti. Lei. Può darsi benissimo, non sono ancora convinta del contrario. Non ti rispondo più. Ma sì che finirai per rispondermi, tanto ti lasci sempre trascinare. Ma se ti rispondo solo a casaccio. Però rispondi, e devi sempre avere ragione. Le tue previsioni non si avverano mai. Finora sì che si sono avverate. Non è vero. L'invasione l'anno scorso, i finlandesi avevano già la pace, l'Italia era già finita in inverno, i russi avevano già Leopoli. No, guarda, secondo me le tue previsioni non valgono una cicca. Lui alzandosi. E adesso chiudi finalmente quel becco. Prima o poi ti dimostrerò che ho ragione. Basterà una sola volta. Non ne posso più di queste stupidaggini. Ti sbatterò sul muso le tue sciocchezze. Fine primo atto. Io in realtà ho riso a crepapelle, anche la mamma, mentre Peter si tratteneva. Che stupidi questi adulti, che incomincino a migliorare se stessi prima di criticare tanto i figli. Da venerdì di notte abbiamo ripreso a tenere aperte le finestre. Tua Anne Marie Frank. Lunedì 22 maggio 1944. Cara Kitty, il 20 maggio papà ha perso 5 yogurt in una scommessa con la signora Van Dan. L'invasione non c'è ancora stata. Posso dire tranquillamente che tutta Amsterdam, tutti i Paesi Bassi, perfino tutta la costa occidentale dell'Europa fino alla Spagna parla dell'invasione, dibatte, scommette e spera. La tensione sale verso l'apice. Non tutte le persone che mettiamo tra gli olandesi buoni hanno mantenuto la fiducia negli inglesi, né considerano il bluff degli inglesi un trucchetto da maestri. No, la gente adesso vuole finalmente vedere azioni, gesta grandi ed eroiche. Nessuno pensa più in là del proprio naso. Nessuno crede che gli inglesi si battano per sé e per il proprio paese. Tutti pensano che siano costretti a salvare l'Olanda al più presto e meglio possibile. Quali obblighi hanno veramente gli inglesi? Con che cosa si sono guadagnati il loro nobile aiuto, gli olandesi, che lo aspettano come una cosa certa? No. I cittadini dei Paesi Bassi si sbagliano di grosso. A dispetto dei loro bluff, gli inglesi non si sono resi ridicoli più di tutti gli altri paesi e paesucoli che adesso sono occupati. Gli inglesi non chiederanno scusa. Hanno dormito mentre la Germania si armava, ma anche tutti gli altri paesi, i paesi che confinano con la Germania, hanno dormito. La politica dello struzzo non funziona. L'ha visto l'Inghilterra, l'ha visto tutto il mondo e adesso tutti, uno per uno, Inghilterra in testa, devono pentirsi amaramente. Nessun paese sacrificherà per niente i propri uomini, soprattutto non per soddisfare le necessità di un altro. Neanche l'Inghilterra lo farà. L'invasione, la liberazione e la libertà prima o poi arriveranno, ma sarà l'Inghilterra a scegliere il momento, non i territori occupati. Con grande dolore e raccapriccio abbiamo appreso che molte persone hanno cambiato atteggiamento nei confronti di noi ebrei. Abbiamo sentito che l'antisemitismo si è infiltrato in ambienti in cui prima non ci si pensava. Tutti e otto siamo rimasti profondamente impressionati da questo fatto. La causa di quest'odio verso gli ebrei è comprensibile, talvolta perfino umana, ma non è giusta. I cristiani rimproverano gli ebrei di fare la spia con i tedeschi, di tradire quelli che li aiutano, che molti cristiani, per colpa degli ebrei, devono subire il terribile destino e la terribile punizione di tanti altri. Tutto questo è vero, ma come in tutte le cose, si deve guardare anche il rovescio della medaglia. I cristiani al nostro posto si comporterebbero in modo diverso? Può un uomo, ebreo o cristiano, tacere di fronte ai metodi dei tedeschi? Tutti sanno che è praticamente impossibile, perché allora si pretende l'impossibile dagli ebrei? Negli ambienti clandestini si sussurra che gli ebrei tedeschi immigrati nei Paesi Bassi, che ora si trovano in Polonia, non potranno più tornare nei Paesi Bassi. Avevano il diritto d'asilo qui, ma quando Hitler cadrà dovranno tornare in Germania. Sentendo questo, non viene da chiedersi per che cosa si stia combattendo questa guerra così lunga e difficile? Sentiamo sempre dire che combattiamo tutti insieme per la libertà, la verità e il diritto. E se già durante la guerra si fanno differenze, l'ebreo deve essere meno degli altri? O è triste, molto triste, che per l'ennesima volta sia confermato l'antico detto: un cristiano risponde di quello che fa, mentre quello che fa un ebreo ricade su tutti gli ebrei. Onestamente, non riesco a capire che gli olandesi, la gente di questo popolo buono, onesto e giusto, ci giudichino. Giudichino così il più oppresso, infelice e degno di commiserazione di tutti i popoli, forse di tutto il mondo. Spero solo una cosa, che quest'odio nei confronti degli ebrei sia di carattere passeggero, che gli olandesi facciano vedere chi sono, che non vacilli ora né mai il loro senso di giustizia, perché è ingiusto. E se questa prospettiva orribile dovesse davvero tradursi in realtà, il misero pugnetto di ebrei rimasti lascerebbe l'Olanda. Anche noi ce ne andremo via col nostro fagottino da questo bel paese che ci aveva accolti a braccia aperte e ora ci volta le spalle. Mi piace l'Olanda. Una volta speravo che potesse diventare la mia patria di senza terra, e in realtà lo spero tuttora. Tua Anne Marie Frank. Giovedì 25 maggio 1944. Cara Kitty, ogni giorno ce n'è una nuova. Stamattina è stato preso Van Oven. Aveva due ebrei in casa. Per noi è un duro colpo. Non solo che quei poveri ebrei siano di nuovo sull'orlo del precipizio, ma anche per Van Oven è terribile. Qui il mondo va alla rovescia. Le persone più a posto vengono mandate nei campi di concentramento, in prigione, in celle di isolamento, e la feccia resta a governare giovani e vecchi, ricchi e poveri. Uno va a finire dentro per via del mercato nero, un altro perché aiuta gli ebrei o altri nascosti. Nessuno che non sia dell'NSB sa che cosa succederà domani. Anche per noi Van Oven è una grave perdita. Beppe non può e non deve trasportare fin qua tutte quelle patate. Non ci resta che mangiare di meno. Come faremo? Avrò modo di dirtelo in seguito. Sicuramente la situazione non migliora. Mamma dice che non faremo più colazione. A pranzo porridge e pane. Di sera patate al forno ed eventualmente una o due volte la settimana verdura cotta o insalata. Non di più. ci sarà da fare la fame, ma qualsiasi cosa è meglio che essere scoperti. Tua Anne Marie Frank. Venerdì 26 maggio 1944. Carissima Kitty, finalmente è giunto il momento in cui posso starmene seduta al mio tavolino davanti alla finestra socchiusa e scriverti tutto, proprio tutto. Mi sento malissimo. Erano mesi che non mi sentivo così. Nemmeno dopo i ladri ero così distrutta dentro e fuori. Da un lato Van Oven, la questione degli ebrei, che in tutta la casa viene discussa dettagliatamente, l'invasione che si fa attendere, il mangiare male, la tensione, l'umore pessimo, la delusione per Peter, e dall'altra il fidanzamento di Beb, la festa di Pentecoste, i fiori, il compleanno di Kugler, torte e racconti di cabaret, film e concerti. Questo contrasto, questo forte contrasto c'è sempre. Un giorno ridiamo per la stranezza di essere nascosti e il giorno dopo, e comunque spesso, abbiamo paura e sulle nostre facce si vedono timore, tensione e disperazione. Miep e Kugler sentono più degli altri il peso di noi e di tutti i clandestini. Miep nel lavoro e Kugler, per cui a volte l'enorme responsabilità per noi otto diventa eccessiva, che non riesce più nemmeno a parlare per i nervi e la tensione. Anche Kleiman e Beb si curano di noi, anzi, sono molto bravi, ma ogni tanto si dimenticano dell'alloggio segreto per un paio di orette, un giorno, magari due. Hanno i loro pensieri, Kleiman per la salute, Beb per il fidanzamento che non sembra molto roseo, e oltre a questi pensieri hanno anche le commissioni, le visite, tutta la loro vita di persone normali. Per loro ogni tanto la tensione si allenta, anche se soltanto per breve tempo. Per noi non molla mai. Da 2 anni... E per quanto tempo continuerà a tenere su di noi la sua mano schiacciante, sempre più pesante? Continuo a chiedermi se non sarebbe stato meglio per tutti che non ci fossimo nascosti e adesso fossimo morti senza dover soffrire tanto e soprattutto per salvaguardare gli altri. Ma anche questo ci spaventa tutti. Amiamo ancora la vita. Non ci siamo ancora dimenticati della voce della natura. Speriamo ancora, speriamo per tutto. Speriamo che adesso succeda presto qualcosa. Alla peggio anche una bomba. Tanto non ci sconvolgerebbe più di questa inquietudine. Che venga una fine, anche se dura. Così almeno sapremo se vinceremo o coleremo a picco. Tua Anne Marie Frank. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.